Hula hoop, hula hula hoop, hula hoop, hula hula hoop, hula hoop. È nato sotto il cielo delle Hawaii, il rosso fio che fu chiamato hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop. Racconta una leggenda delle Hawaii, che una fanciulla di quel fio si innamorò. Hula hoop, il sole delle Hawaii per gelosia, quel fiore in cerchio rosso trasformò. Hula hoop, per questo le fanciulle delle Hawaii col cerchio rosso ballan tutte. Hula hoop, hula hoop. Hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop, hula hoop.